Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Effetto giorno di Alessio Maurizi. Politica in lutto per la morte di Jole Santelli. La presidente della Calabria aveva 52 anni ed era malata da tempo. Acqua alta a Venezia, ma si alzano le barriere del Mose e la città non si allaga. Emergenza Covid, casi in crescita in Italia, Lombardia e Campania, le regioni più a rischio, allerta anche in Germania, in Francia, via al coprifuoco nelle città. Presidenziali americane, Facebook e Twitter bloccano articoli e account falsi. Stasera discorsi a distanza per Biden e Trump. Buongiorno da Alessio Maurizi, dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24, che apriamo con il lutto nel mondo della politica per la morte di Jole Santelli, la 52enne presidente della Calabria, la prima donna presidente al sud. Era malata da tempo, ma il decesso sarebbe avvenuto improvvisamente. Ancora ieri aveva partecipato a una serie di incontri politici. Sentiamo. La simpatia, la tenacia, la passione per la politica erano soltanto alcune delle caratteristiche di Jole Santelli, governatrice della Calabria, che avrebbe compiuto 52 anni a dicembre. Scomparsa nella notte dopo una lunga lotta contro il cancro, era stata eletta presidente della regione, prima donna a ricoprire quel ruolo, il 20 febbraio 2020. Avvocata nello studio di Previti, deputata di lungo corso in Forza Italia, è stata sottosegretaria alla giustizia dal 2001 al 2006. Nei governi Berlusconi e sottosegretaria al Ministero del Lavoro nel 2013 nel governo Letta. L'annuncio del presidente della Camera Roberto Fico. Purtroppo è notizia della scomparsa della presidente della regione Calabria Jole Santelli. La settimana prossima faremo qui in aula la commemorazione, anche perché in questo momento sappiamo che siamo tutti molto scossi. Tra le recenti battaglie, il tentativo di aprire bar e ristoranti a fine aprile durante il lockdown. Così interveniva Santelli a Piazza Pulita. 10 giorni, 15 giorni in una regione come la mia sono giorni importanti, sono numeri importanti. Quelle imprese rischiano di rimanere chiuse per sempre. La politica è il lutto, salta l'incontro Stato-Regioni, Silvio Berlusconi commenta, lascia un vuoto incolmabile. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora la situazione per quanto riguarda l'emergenza coronavirus, perché in Italia si è registrato ieri un record di contagi in un solo giorno dall'inizio della pandemia, con un balzo in avanti di 7.332 pazienti a fronte di 152.000 tamponi. I ricoveri in terapia intensiva sono anch'essi saliti, adesso sono un totale di 539, sentiamo. Mentre si cerca di allontanare lo spettro di un lockdown a Natale, come ipotizzato dal virologo Crisanti per resettare il sistema, le regioni si attivano con proposte e provvedimenti. Il premier Conte ricorda che misure restrittive sono già possibili da parte delle regioni. In Campania alcune decine di commercianti stanno bloccando la rotonda di Arzano, strada nevralgica per l'accesso al centro a nord di Napoli, per protestare contro il mini lockdown in vigore da oggi fino al 23 ottobre, su decisione della commissione straordinaria che amministra il comune. Il sindaco di Firenze Dario Nardella sulla movida si dice favorevole ai militari del progetto Strade Sicure e reparti mobili nelle strade, e il presidente del Friuli Venezia Giulia Fedriga dice non ipotizzo nuove restrizioni. E in Sardegna, anche dopo la conferma del governo sulla capienza all'80%, monta la protesta perché in classe le distanze anti-covid vengono rispettate ma sui bus no. Oggi molti studenti cagliaritani sono rimasti a casa. Il governatore della Lombardia Fontana fa sapere che la ministra dell'istruzione Azzolina è contraria alla didattica a distanza ma è disponibile a prevedere una differenziazione degli orari di ingresso e inizio lezioni. E in Piemonte il governatore Cirio annuncia test rapidi ai valichi di confine con la Francia, e sul trasporto scolastico rilancia regioni inascoltate. Siamo un paese in cui per evitare di infettare i bambini sul pullman, dice, non li mandiamo a scuola invece di mettere un pullman in più. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E quasi tutti i paesi europei, la Francia, la Gran Bretagna, la Germania, hanno annunciato in queste ore misure per contenere la diffusione del virus. Ne parleremo ancora nella seconda parte di Effetto Giorno. In Italia invece il governo ha lavoro per sciogliere i nodi della manovra che potrebbe essere approvata già nel fine settimana. Governo e maggioranza restano al lavoro per trovare una quadra sulla manovra anti-Covid. Dopo il vertice notturno di ieri sarà necessario un nuovo incontro che dovrebbe tenersi domani sera. Il via libera alla legge di bilancio da parte del Consiglio dei Ministri potrebbe invece arrivare nel fine settimana. Toccherà al ministro dell'economia Gualtieri trovare un equilibrio fra le richieste avanzate da PD, 5 Stelle, Italia Viva e LeU. Tra le misure al vaglio c'è il prolungamento della cassa integrazione per i settori più colpiti, mentre appare difficile una proroga del blocco delle assunzioni. I 5 Stelle puntano su scuola, superbonus e riforma fiscale. Sulla scuola insiste anche il PD, che chiede poi risorse per incentivare le assunzioni. Secondo fonti europee, intanto in giornata l'Italia dovrebbe presentare a Bruxelles le linee guida del piano messo a punto per poter usufruire degli aiuti previsti dalla Recovery Fund. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora andiamo a Venezia, dove oggi, per via di un vento di scirocco molto intenso, era prevista una alta marea eccezionale con un picco di 130 centimetri. È entrato in funzione ancora una volta il Mose ed è la seconda volta che le barriere davanti alla laguna si alzano. Sentiamo com'è andata. Pioggia battente e forte vento di scirocco a Venezia, ma l'acqua alta non ha invaso la città nonostante la previsione di un picco di 135 centimetri alle 10.40 di stamane. Per la seconda volta in 15 giorni il Mose è entrato in funzione. Le paratoie alle bocche di porto del Lido e di Malamocco erano già tutte sollevate alle 9 e in città il livello dell'acqua si è fermato intorno ai 65 centimetri di altezza. Piazza San Marco, la Basilica e tutti i punti più bassi della città dunque sono rimasti all'asciutto. Certo, la grande opera ancora non è completamente conclusa e ci sono molti dubbi sul costo delle manutenzioni e di ogni sollevamento, ma si può dire che il secondo test in condizioni meteo avverse abbia avuto esito positivo e questo, dopo tanti anni di attesa, è sicuramente un successo. Silva Menetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Venezia. E ora la corsa verso le elezioni presidenziali americane del 3 novembre. Intervengono Facebook e Twitter per bloccare articoli e account ritenuti falsi. Stasera invece, al posto del previsto faccia a faccia che è stato annullato a causa della positività di Trump al Covid, i due candidati terranno discorsi in contemporanea. Saltato il dibattito presidenziale per la positività di Donald Trump, questa sera sarà duello TV a distanza tra il presidente Joe Biden. Entrambi i candidati si sfideranno davanti a milioni di telespettatori rispondendo alle domande degli elettori. Donald Trump, da Miami, sarà in diretta sulla NBC alla stessa ora, in prima serata, dell'evento televisivo da Filadelfia programmato da tempo da Joe Biden, che sarà trasmesso dalla ABC. In attesa di quella che è stata ribattezzata la notte dello zapping, Donald Trump si è scagliato contro Twitter e Facebook, colpevoli a suo dire di aver sospeso l'account della portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, la quale aveva postato l'articolo del New York Post sulle presunte email di Hunter Biden, il figlio di Joe Biden, che inchioderebbero l'ex vicepresidente. I social media hanno fatto sapere di stare verificando la veridicità del presunto scoop e Twitter ha nel frattempo bloccato anche alcuni account fake di falsi supporter del presidente in cui si leggeva «sono afroamericano e voto Trump». Quest'ultimo ha definito la decisione dei canali social terribile e Joe Biden un politico corrotto al quale non dovrebbe essere permesso di correre per la Casa Bianca. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Con la cronaca torniamo in Italia. A Milano la procura ha chiuso le indagini sulla morte di Carlotta Benusiglio, la 37enne trovata impiccata ad un albero in Piazza Napoli nella notte tra il 30 e il 31 maggio 2016. Indagato ora è l'ex fidanzato Marco Venturi, accusato anche di atti persecutori, l'avrebbe strangolata e poi inscenato il suicidio. Un'inchiesta del ROS dei Carabinieri ha svelato gli affari dell''ndrangheta che aveva messo radici anche in Trentino. Oltre agli arresti in corso, sono stati sequestrati beni per un valore di 13 milioni di euro. Nel mirino degli inquirenti sono finiti quelli che sono ritenuti i vertici, i luogotenenti e gli affiliati alla cosca Serraino dell''ndrangheta. Le indagini hanno permesso di accertare l'operatività della cosca anche in Trentino Alto Adige attraverso una locale, una vera e propria proiezione dell'omonima struttura criminale calabrese. L'operazione è il seguito dell'inchiesta che a luglio aveva portato all'arresto di 12 persone e tra queste il reggente della cosca Serraino, Maurizio Cortese. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Due imprenditori torinesi sono invece finiti in carcere assieme ad altre 16 persone fermate dalla Guardia di Finanza di Torino, che ha così smantellato una organizzazione criminale ramificata in tutta Europa e dedita alle frodi nel settore informatico. L'indagine è stata coordinata da Eurojust, sequestrati beni per 40 milioni di euro. Al via da oggi la festa del cinema di Roma, sentiamo. Ancora una volta un festival sfida i tempi bui del Covid e prova a portare il pubblico al cinema. Le sale sono luoghi sicuri e anche questa manifestazione adotterà misure stringenti per gli aspetti collaterali. Il red carpet sarà a distanza, con il pubblico che potrà assistere dalla cavea dell'auditorium, proprio sopra la sfilata delle star. Gli ingressi saranno contingentati e solo su prenotazione. Le conferenze anche in streaming. Il film di apertura della 15ª edizione della Festa del Cinema di Roma è Soul, il nuovo lungometraggio Disney e Pixar firmato dal premio Oscar Pete Docter. In corsa Disney ha cambiato idea sulla distribuzione. Addio al grande schermo, il film sarà trasmesso unicamente sulla sua piattaforma streaming. E i gestori, non solo italiani, puntavano sul titolo di forte richiamo per portare il pubblico in sala nelle feste. Ma ci sono altri film attesi nei giorni romani. Da Ammonite con Kate Winslet e Saoirse Ronan a Small Axe del premio alla carriera Steve McQueen, al film sul lockdown Fuori era primavera di Gabriele Salvatores e ovviamente il documentario di Alex Infascelli Mi chiamo Francesco Totti. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13 e 11 minuti dopo la sintesi della giornata di oggi con le principali notizie, Effetto Giorno torna tra poco. Ripartiremo dal caso Milano, 1000 contagi, di cui 500 solo nella città di Milano. Cosa succede? Qual è l'origine di questi casi e cosa fare? Di questo parleremo tra poco. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Politica in lutto per la morte di Iole Santelli. La presidente della Calabria aveva 52 anni, era malata da tempo. Emergenza Covid, casi in crescita in Italia, Lombardia e Campania, le regioni più a rischio. Allerta anche in Germania, in Francia, via al coprifuoco nelle città. Acqua alta a Venezia, ma si alzano le barriere delle Mose e la città non si allaga. Presidenziali americane, stasera discorsi a distanza per Biden e Trump. Tredici e 15 minuti, è con noi il dottor Vittorio De Micheli, direttore della ATS della città metropolitana di Milano. Benvenuto, buongiorno. Buongiorno. Allora, De Micheli, a dire la verità, lei già qualche giorno fa aveva lanciato un segnale di attenzione nei confronti della città di Milano, che sta viaggiando da alcuni giorni con un livello di contagi abbastanza preoccupante. Ieri sono stati 1844 i casi positivi in Lombardia, con quasi 30.000 tamponi. Di questi, 1032 casi, se abbiamo letto bene i dati, riguardano la città di Milano, in particolare 504 proprio Milano città. Partiamo da qua, De Micheli, da questi dati, no? Come ce li può descrivere e anche se siamo in grado di dire qual è l'origine di alcuni di questi focolai, di alcuni di questi casi, le scuole, le famiglie, i trasporti, gli uffici? Allora, intanto più che i numeri è la velocità con cui questi numeri stanno cambiando. Se prendiamo il segmento meno preoccupante della nostra popolazione dal punto di vista della malattia, che è il segmento infantile, la popolazione scolastica, sì, nonostante sia così sotto i riflettori, il contagio dentro la popolazione scolastica raddoppia nel corso di una settimana. La prima settimana erano 50, poi sono 100, questa settimana erano 200 e oltretutto 200 bambini, neanche 200 bambini infettati, hanno messo in quarantena più di 3.000 contatti stretti. Questo dà un po' l'idea di quello che sta succedendo. La ripresa completa dell'attività sta facendo aumentare la probabilità dei contatti. La prima cosa che è giusto dire, De Micheli, è in questo caso i bambini, e questi 200 bambini trovati positivi, Lei è in grado anche di dirci più o meno in che percentuale, come stanno, se ci sono alcuni ricoverati o no? Perché nella stragrande maggioranza sono addirittura asintomatici. Perfetto. Oltre il 90%, così come nella popolazione generale, che è più colpita in proporzione, sì, dal punto di vista della gravità clinica, siamo ancora lontanissimi da quegli indici di gravità, okay, che abbiamo visto a marzo. Quindi però, sì, prego. No, però in proporzione è ovvio che è come se stessimo osservando un fenomeno simile, ma lo stiamo osservando con molto anticipo, quindi abbiamo il tempo di organizzare in qualche modo, ecco, le contromisure. Questo è un fatto anche positivo, cioè avere individuato 200 bambini positivi nelle scuole di Milano, perché il virus che stia circolando lo abbiamo sempre saputo e lo sappiamo. Il fatto che si riesca a intercettare, e diciamo prima ancora che si manifesti la malattia, anche questo mi sembra di poter dire che è un dato positivo. Però proprio ieri il direttore dell'ospedale della terapia intensiva del Sacco di Milano ha detto che anche per quanto riguarda i ricoveri c'è un dato, almeno in quell'ospedale, preoccupante, perché nel giro di qualche settimana, lui ha detto, potremmo essere in una situazione critica. Da questo punto di vista i numeri quali sono, De Micheli? Allora, io penso che avendo noi durante l'estate concentrato l'attività in pochi centri, questi centri stanno arrivando a saturazione, però si tratta solo di ridistribuire il carico. Abbiamo letti, diciamo, a sufficienza per reggere ancora tantissimo tempo. Quindi è bene che ci preoccupiamo, ma non è ancora allarmante la situazione dei ricoveri. È invece molto seria la velocità di crescita, nel senso che purtroppo la tracciatura, che riesce ancora abbastanza bene nel mondo della scuola, nella popolazione generale non riesce più a stare dietro ai casi che si verificano. Per cui è arrivato il momento di pensare anche a qualche ulteriore azione di riduzione della probabilità dei contatti. Bisogna intervenire un pochino sul numero di persone che si spostano a Milano. Il sistema dei trasporti è sicuramente un luogo dove bisogna ridurre un po' la probabilità di contagio e probabilmente regolare un po' gli orari di apertura degli esercizi. Il DPCM che è uscito l'altro, sì, giorno, per la realtà metropolitana di Milano probabilmente non basta. È debole, è poco incisivo, però questo sappiamo che è una facoltà che hanno le regioni e anche i sindaci, che hanno potere d'ordinanza dal 15 settembre, quindi potranno intervenire. Lei auspica che ci sia un intervento e questo è un punto. Tornerei un attimo, un passo indietro, quando lei diceva che nella capacità di tracciamento c'è qualche falla. Lei stesso ha detto che insomma avete anche un po' di arretrati, faticate con questa crescita esponenziale a stare dietro quindi a risalire a tutti i casi, no? È stato potenziato sufficientemente in questi mesi, diciamo, di relativa tranquillità questo sistema? Lei è relativamente tranquillo o anche questo è un problema? No, allora dal minimo che era verso luglio la capacità di tracciamento è stata triplicata. In questo momento c'è un piccolo esercito di circa 150 persone solo per Milano. Il problema è che, e poi soprattutto a Milano, abbiamo molto potenziato gli automatismi, che sono quelli che con i nostri numeri sono indispensabili. Per esempio in questo momento non so se tutti sanno che tutti i medici e i pediatri possono prenotare direttamente i tamponi per i loro assistiti, oppure se segnalano gli assistiti come sospetti le persone stesse possono prenotare il tampone. Tutta Milano funziona così. Il problema è che si arriva a un numero in cui la tracciatura diventa molto lunga e complicata. Un ragazzino che va a scuola, va in piscina, va in palestra, va a danza eccetera, richiede un'intervista telefonica che dura 2 o 3 ore solo per ricostruire i contatti e mette magari in quarantena 100 persone. Quando i numeri diventano così grossi, la velocità con cui li rintracciamo non è più sufficiente. Quando identifichiamo un contatto, ha già avuto modo di contagiare delle altre persone. Senta, tornando a Milano per chiudere, lei diceva con i trasporti, bisogna fare qualcosa sui trasporti, bisogna scaglionare di più gli orari, anche per quanto riguarda le attività dei locali, che è già stata ristretta, ma insomma, lei dice si può far di più, fino ad arrivare a cosa? Di cosa ci sarebbe bisogno adesso, secondo lei? Ci sono una serie di misure che sono state anche proposte dal nostro comitato tecnico scientifico. Sì. So che in queste ore ci sono contatti, perché io penso che la Regione Lombardia non deve essere lasciata da sola nel prendere questa decisione. Abbiamo già a marzo anticipato ciò che poi sarebbe successo nel paese, bisogna fare la stessa cosa qui. Ci sono delle decisioni da prendere. Io penso che, per esempio, tutte dalle scuole superiori in su, se ripensassimo per un po' alla didattica a distanza, ridurremo anche l'impatto sui sistemi di trasporto. Che era la proposta di alcune regioni, sì sì, assolutamente, molto chiaro. Per le classi... Per le... sensibile, lo capisco. No, no, no, ma è chiaro, per le classi più veloce che possiamo fare, con i ragazzi più grandi, quelli che possono stare a casa da soli, che non bloccano i genitori a casa. La proposta è: cominciamo a fare un po' di alternanza, altrimenti arriveremo, è l'ultima domanda che le faccio, De Micheli, a un lockdown entro la fine dell'anno se non facciamo niente? Secondo me, se siamo veloci, possiamo pensare a delle restrizioni mirate. Se perdiamo un po' di tempo, dobbiamo chiudere. Secondo me, con la velocità a cui che stiamo registrando in questi giorni, probabilmente dovremo chiudere prima di Natale, come ha detto qualcuno, perché la velocità di crescita a Milano in questo momento è preoccupante. Ecco, grazie De Micheli, grazie. Buon lavoro. Speriamo che, non dico che qualcuno fosse all'ascolto adesso, perché queste sono posizioni abbastanza note, diciamo, no? Lo stesso Fabrizio Pregliasco ieri parlava di lockdown, Crisanti è stato anche criticato per aver detto un lockdown entro la fine di Natale, ma non è che qualcuno auspica questo. Qui stiamo parlando dei medici, gli epidemiologi che stanno in prima linea e che vedono la diffusione del virus che è cambiata in questi giorni, cioè c'è stato un aumento da lineare ad esponenziale. Quindi, se non vogliamo arrivare, addirittura diceva De Micheli, prima della fine dell'anno a un lockdown, bisogna fare qualcosa adesso. Da Milano ci spostiamo a Roma per tutt'altro genere di notizie, perché parliamo della candidatura di Carlo Calenda, quasi annunciata a sindaco di Roma, mentre Virginia Raggi ha confermato di volersi ricandidare. Il centrodestra non ha ancora un nome, così come il PD non si è ancora sbilanciato. Daniele Biacchessi. Quello nato in queste ore a Roma per individuare il dopo Virginia Raggi si presenta come un vero e proprio laboratorio politico, va sotto il nome di Insieme per Roma e raccoglie tutte le anime del centro-sinistra, solitamente divise e lacerate. Dal Partito Democratico ai Verdi, da Azione di Calenda a Italia Viva di Matteo Renzi, da Articolo 1 a Sinistra Italiana, dai socialisti ai repubblicani. L'idea è quella di scrivere un programma di governo e formare un cartello elettorale, più che estendere la discussione ai candidati da mettere in campo per le elezioni comunali del 2021. Ma il percorso non è per nulla semplice. Lo scoglio resta lo strumento delle primarie, chiesto dal Partito Democratico, contrastato da numerose formazioni, specie da Azione, che schiera già Calenda come unico candidato capace di imporsi nella tornata elettorale. Il centrodestra non ha ancora scelto, invoca la candidatura di Massimo Giletti, che però prende tempo. L'esito positivo di questo laboratorio potrebbe rappresentare un test non solo locale a Roma, ma esportabile almeno sulla carta a livello nazionale, con chiari riflessi sul governo. Parlavamo poco fa di trasporti con il direttore dell'ATS di Milano, lo facciamo adesso a proposito di Bologna, perché c'è un nuovo servizio di Uber attivo. Uber, lo sapete, la piattaforma californiana che fornisce un servizio di trasporto privato attraverso una app che mette in collegamento passeggeri e autisti. Questa novità è stata però contrastata dagli operatori del settore, i tassisti in particolare, e poi sul filo anche delle decisioni della magistratura. Non è presente questa app in Europa e in Italia, ma in Italia c'è e ci sarà da adesso anche a Bologna, dopo Milano e Roma, il cosiddetto servizio NCC, noleggio con conducente, in genere un servizio più caro, di nicchia. Uber ha annunciato una collaborazione con una cooperativa di trasporti bolognesi in un momento tra l'altro molto delicato per il settore. Ne parliamo con l'assessore alle politiche per la mobilità e il trasporto pubblico di Bologna, Claudio Mazzanti. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, come funziona questo nuovo servizio che si aggiunge, diciamo, alla rete dei trasporti di Bologna? Che segmento, diciamo, del bisogno andrà a coprire? Ma guardi, loro lavorano in un ambito che è quello sostanzialmente del servizio urbano ed extraurbano. è una piattaforma a cui lei si rivolge con un'app, chiede il servizio, questo servizio viene erogato in questo caso con un accordo commerciale sottoscritto fra due entità private, questa cooperativa, sì, Cosipuri, e Uber. Quindi da un punto di vista legale nulla da eccepire, nulla da dire. Da un punto di vista di funzionalità, per quel che riguarda la realtà bolognese e metropolitana bolognese, diciamo che è una novità che crea problemi da un punto di vista di quella che è il servizio storico che viene fatto nella città di Bologna. Mi spiego. Perché problemi? Le spiego. Noi abbiamo oggi centrali operative, sì, che operano coi taxi. Abbiamo gli NCC, che sono due grossi consorzi cooperativi, Sacca e Cosipuri. Cosipuri è ritenuto di entrare con Uber, che è quello che ti trova i clienti. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che Uber mette piede, ne sa le contraddizioni che ci sono state in passato, perché queste piattaforme hanno sempre lavorato in piena autonomia, con un equilibrio all'interno dell'ambito territoriale bolognese. Nel momento in cui un terzo, che è un procacciatore di affari, cioè ti trovi i clienti, una volta che lui entra, come ha fatto da altre parti, chiaramente questo cosa pone? Pone in discussione quella che è l'organizzazione che Bologna ha avuto, che non ha mai creato problemi, che ha sempre dato risposte, però mantenendo un equilibrio dal punto di vista del compenso e dal punto di vista del servizio. Arriva un altro, chi si pone in questo gioco, in quest'ambito di mercato, il rischio qual è? Che sostanzialmente crea disequilibrio in un servizio che aveva una sua storicità, una sua prestazione, che alla città di Bologna aveva sempre dato ottimi servizi senza mai scompensi neanche sul piano occupazionale. Senza entrare nel merito di questa sua analisi, assessore Mazzanti, però bisogna poi ricordare che saranno i consumatori a decidere se effettivamente questo disequilibrio è svantaggioso o vantaggioso per loro, cioè se useranno il servizio, se non lo useranno, come lo useranno, eccetera. Questo come doverosa puntualizzazione. Certo. La faccio concludere, poi però le voglio fare una domanda più in generale. Velocissimo. Sì. Altra cosa che è importante, sì, non a caso, dopo che Uber ha cercato negli anni di sfondare quei taxi e gli è andata male, certo, ha dovuto cambiare strategia. Ha dovuto cambiare strada. Lasciamo però perdere per un momento. Attenzione, con gli NCC, attenzione, la legge è molto chiara, la legge 21. Sì. Un NCC non può essere un taxi. Quindi, se Uber cerca di usare gli NCC come cavallo di Troia, e beh, a Bologna questa è una vicenda, perché noi la legge la faremo rispettare alla lettera. Questa è una vicenda che in effetti scusi, la interrompo a Mazzanti perché capisco che la vicenda sia la appassioni molto, però in realtà al di là della notizia sugli NCC, l'accordo con Uber a Bologna, e c'è una tradizione anche di ricorsi da questo punto di vista già in altre città, quindi dovranno rispettare rigorosamente la legge, altrimenti farete valere le vostre ragioni. Detto questo, più in generale le voglio chiedere, però in pochi secondi che sono rimasti, per quanto riguarda la sua realtà, quella di Bologna, perché la sensazione è che in questi mesi si sia fatto poco sui trasporti, si è investito poco, governo soprattutto e anche un po' regioni, visto che il trasporto locale si gestisce dal punto di vista amministrativo su base regionale. C'è stato questo ritardo? Voi cosa avete fatto? Allora, se si mi parla del TPL, il trasporto pubblico locale, quindi il trasporto di massa, noi pensiamo come regione di essere all'avanguardia insieme ad alcune altre realtà, poche realtà nazionali. Quindi da questo punto di vista non abbiamo nulla da recriminare, da un punto di vista del trasporto pubblico locale. Se invece parliamo di quello che è il servizio taxi NCC, allora cambia completamente la musica, nel senso che questi sono servizi privati che ergono un servizio singolo alla persona o a gruppi di persone. Naturalmente la domanda è relativa alla prima parte, cioè al trasporto pubblico locale, alla percentuale di riempimento degli autobus. Allora, sulla percentuale di riempimento degli autobus noi rispettiamo alla lettera, in tutte le sue parti, a Bologna e in Emilia Romagna, quanto disposto dai decreti ministeriali. Ieri sera quelle norme sono state riconfermate sia dalle regioni che dal governo centrale. Noi a Bologna, che abbiamo un servizio, noi siamo fra le tre aziende, noi Milano e Venezia, che produciamo utili, diamo un servizio competente valutato positivamente. Quindi noi tutte le risorse che abbiamo le abbiamo spese sia noi che la regione. Poi è chiaro che il Covid ha colpito i bilanci in modo pesante sul trasporto pubblico locale. Le do un dato: l'Emilia Romagna il Covid ha inciso per mancati introiti e maggiori spese per 30 milioni al mese di perdite, di cui il 60% Bologna, perché è quella che rappresenta il 60% del trasporto regionale. Pur tuttavia abbiamo mantenuto i servizi, non li abbiamo tagliati, e anzi adesso le abbiamo incrementati. Lei tenga conto che oltre al servizio al 100% abbiamo incrementato per rispondere all'affollamento di 260 mezzi. Cosa dobbiamo fare di più? Va bene, io la ringrazio Assessore Mazzanti, grazie per essere stato con noi. Con un po' di ritardo alle 13.32 andiamo in pubblicità, informazioni di borsa, poi torniamo 349-238-6666 per i vostri messaggi. Andremo anche a Parigi per vedere quali sono le decisioni che sono state prese ieri in Francia con il confinement, un quasi lockdown in alcune città. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Effetto giorno. Ecco le notizie di oggi. Politica in lutto per la morte di Iole Santelli. La presidente della Calabria aveva 52 anni, era malata da tempo. Emergenza Covid, casi in crescita. Lombardia e Campania, le regioni più a rischio. Allerta anche in Germania e in Francia, via al coprifuoco nelle città. Presidenziali americane, stasera discorsi a distanza per Biden e Trump. minuti, eccoci qua in diretta di nuovo con Effetto Giorno, cari ascoltatori. Vediamo velocemente al 349-238-6666 i vostri messaggi su Bologna. Ci sono diversi messaggi e della verità smentiscono un po' quello che ha detto l'assessore. Gli autobus a Bologna sono strapieni, dice Cristiana. Non c'è nessuno che fa rispettare la percentuale di riempimento. È quello che sospettavamo, è la domanda che gli abbiamo fatto. Poi ancora a Bologna, pochi taxi, molto cari, nessuna concorrenza autorizzata, ma questa è ancora un'altra storia. Va bene, adesso è il momento del punto del vice direttore del Sole 24 Ore che si occupa oggi di un importante rapporto di ieri che riguarda il rapporto tra fisco e i giganti del web. Il punto di Alberto Orioli. Lo avrete sentito, ma giova ripetere. Ormai la capitalizzazione delle tre big del web, cioè Microsoft, Amazon e Google, vale come il PIL della Germania e se ci aggiungiamo Facebook e Apple, parliamo rispettivamente di 1.000 e 2.000 miliardi che sommate fa due volte il PIL dell'Italia. È evidente il peso economico e politico di questi colossi e a confermarlo è una ricerca di Mediobanca che ha stimato come i principali 25 gruppi del web e del software in 5 anni abbiano risparmiato 46 miliardi di tasse. Il tema della cosiddetta web tax diventa evidentemente cruciale. La ricchezza e il valore si genera nella rete ed è compito principale delle imposte quello di tassare il valore con l'obiettivo di creare una equa distribuzione del carico fiscale. E il Covid, tra l'altro, ha creato un ulteriore paradosso. Mentre tutta l'economia tradizionale subiva una drammatica glaciazione, l'e-commerce o il fintech hanno conosciuto un vero boom. In Italia, però, quel tipo di imprese ha pagato 70 milioni di tasse, sempre stando allo studio di Mediobanca. Tutto regolare, naturalmente, ma un'inezia. È tempo di cambiare le regole. Proviamo a fare un confronto tra Italia e Francia, un paese che nella curva del Covid è davanti a noi di quasi un mese e mezzo. Noi abbiamo toccato ieri 7.000 casi, in Francia questo avveniva il 28 agosto scorso. Cosa è successo dopo? Come ha affrontato Parigi questa progressione? Cosa può imparare l'Italia? All'epoca, a fine estate, la Francia era ancora divisa tra gli esperti che chiedevano nuove misure per contrastare l'avanzata del Covid e la volontà del governo che voleva evitare un nuovo lockdown da cui si era appena uscite che avrebbe messo in ginocchio l'economia. Si arriva senza fare niente al 9 settembre quando il presidente del consiglio scientifico francese Jean-François Delfrassy ammette che entro pochi giorni il governo dovrà prendere decisioni importanti. Parole che suonano profetiche perché 48 ore dopo scattano le prime misure speciali a Bordeaux e a Marsiglia. Nel frattempo viene accorciato il periodo di quarantena da 14 a 10 giorni anche per evitare che poi in realtà non venga rispettata la quarantena da nessuno perché è troppo lunga. Nel frattempo si arriva al 24 settembre, 16.000 casi al giorno, l'esecutivo vara le prime vere e proprie chiusure. A Marsiglia chiudono bar e ristoranti, a Parigi, Lione, Bordeaux, Nizza, chiusura alle 22 per tutti. Si arriva poi a ieri sera, la Francia ormai viaggia a oltre 20.000 contagi al giorno, gli ospedali si riempono in fretta, Macron approva un coprifuoco a Parigi e in altre 8 città. E con noi Danilo Ceccarelli, corrispondente da Parigi. Ciao Danilo, ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, arriviamo proprio a ieri sera. Che cosa ha detto Macron e quali sono le misure che sono state adottate? Forse tardivamente, forse no, ma insomma lo vedremo. Intanto che cosa ha detto? Ma la principale misura annunciata ieri dal presidente Macron riguarda il coprifuoco, che ricordo è una misura che era stata ampiamente anticipata dai media francesi nelle ore precedenti all'intervista rilasciata in televisione. A partire da sabato, per 4 settimane, dalle 21 alle 6 del mattino, scatterà il coprifuoco a Parigi, nella regione parigina dell'Île-de-France e in altre 7 metropoli come Marsiglia, Rouen, Aix-en-Provence, Tolosa. Si tratta di una restrizione che riguarderà soprattutto ristoranti e bar, teatri che dovranno rimanere chiusi in questa fascia oraria, ma il presidente Macron ha già detto che ci saranno molte deroghe soprattutto per i cittadini che saranno obbligati a spostarsi in quella fascia oraria per ragioni di lavoro. Per il momento però si aspettano gli annunci che dovrebbero arrivare oggi dal primo ministro Jean Castex, sì, che in una conferenza stampa prevista per le 14 dovrebbe dare maggiori dettagli. Insomma, misure locali, misure che si concentrano nelle aree più densamente popolate. Credo che questa sarà anche la strada che poi, se sarà il caso, verrà scelta anche in Italia. È stato anticipato. La situazione, la curva l'abbiamo descritta, una curva che ha avuto un'impennata importante, Danilo. Per quanto riguarda per esempio i ricoveri negli ospedali, la situazione degli ospedali, qual è in Francia al momento? Ci sono alcune zone in cui gli ospedali cominciano ad essere sotto pressione, penso soprattutto a Parigi che e alla sua regione, ripeto, l'Île-de-France. Secondo le autorità regionali sanitarie si dovrebbe arrivare entro la fine del mese al 90% dei posti letto dei reparti di rianimazione occupati da persone malate di coronavirus, quindi la situazione comincia a diventare preoccupante. E proprio in questi giorni tornano alla memoria la promessa che era stata fatta a fine agosto dal ministro della salute Olivier Véran, che aveva promesso un totale di 12.000 letti nei reparti di rianimazione contro i 5.000 che erano disponibili durante la prima ondata nella scorsa primavera, e che però non sono arrivati questi letti. Quindi c'è anche una polemica interna che si sta riaccendendo proprio in queste ore all'indomani degli annunci di Macron. Grazie Danilo Ceccarelli, grazie per essere stato con noi. Questo è il racconto dunque della situazione a Parigi, che come abbiamo detto anticipa quello che è la situazione italiana. Basta guardare la curva del contagio per rendersene conto. Ieri noi abbiamo superato i 7.000 casi, che è il livello più alto dall'inizio dell'epidemia, anche se naturalmente molti sono asintomatici, non c'è confronto con la situazione di marzo-aprile, ma se aspettiamo, questo è quello che potrebbe accadere, questo è quello che sta accadendo in Francia. 13:44 minuti, piccolo break, torniamo tra un attimo insieme a Giulia Crivelli, Effetto Mondo. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.